Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. Sembrano di quanto sei bella. Capoccia, oh, alza le dita. Fermo non fame, Roma capoccia, fermo non fa. Allora, alza venditti. Resiste, resiste, amici miei. State tranquilli, qui ho detto che siamo al giorno 6 della resistenza mariniana. E Repubblica dà una notizia, pare in esclusiva. Marino ha deciso. Resisto. Ritiro le dimissioni. Roma. Roma capoccia. Ah no, no, Roma capoccia. Stamattina. Repubblica è sicura. L'ho scoperta. Resiste. Oggi mi sembra che il marziano pare che voglia resistere. Voglia rimanere sindaco di Roma a tutti gli effetti. Ragazzi, oh, ma è bellissimo. Io l'ho detto in tempi non sospetti, per vedere l'effetto che fa, voglio che rimanga, voglio che rimanga, dai che vediamo un bel casotto, dai che ci si diverte. Sto più vivo. Mancano 6 giorni. Sto più buono. No, non te lasso mai. Roma capoccia. Allora, l'hai finita o no? Per mondo infame. Roma capoccia. Dai, Veronica Gentili, canta anche te. È un'ora che la sto cantando. Brava. Resiste, mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che belle cose. Che spettacolo che stiamo per vivere a Roma. Che spettacolo. Che belle cose, quanta belle felicità. Cose, mamma mia. Veronica, eccola qua. se no. Come stai? Come stai, cara Veronica? Doppia dedica oggi, eh? Doppia dedica, come stai? Come stai? Bene, bene. Tutto a posto? Molto contenta di sentire così Roma Capoccia e queste dediche al sindaco. Sì, sì, sì, sì, sì, è bellissimo tutto ciò. Io ho detto deve resistere, dobbiamo vedere uno spettacolo di quelli memorabili, non è che deve mollare così, deve. Che bello, ma poi hai visto ormai che poesia che sono riusciti a far assumere a questa cosa, cioè sentire il sindaco, sì, marziano, sì, che resiste, sì, cioè ormai, sì, è tutto, sì, completamente spersonalizzato e questa storia è diventata quasi da romanzo, capito? È vero, è vero, è vero. Ce è l'hanno vero. Fatta, è sono vero. Riusciti a farla sta cosa. Vabbè, ieri Adinolfi ci ha detto che in realtà starà trattando la presidenza della Fiera del Cavolo, giusto questo per... Questo è perché Adinolfi deve togliere subito tutta la poesia, vabbè, però invece sa, noi vogliamo credere che resiste, vogliamo anche dire che i romani alla fine, no? Sì. Si sono, secondo me uno si chiede perché la mobilitazione dei romani, che cosa gli è successo, perché sti matti improvvisamente sono andati a Campidoglio, no, addirittura. No, no, dai, sono andati in 1000, 2000, 3000. No, su questi i romani secondo me si chiedono più che altro perché non gli levano la monnezza da sotto casa. Questa è la prima domanda. Queste si chiedono tante cose, si chiedono anche perché sulle piste ciclabili ha toppato, ha fatto una pista ciclabile pessima, cioè, si chiedono anche le cose pratiche, però poi si chiedono anche perché il sindaco è loro, l'hanno votato loro, e ci sono delle manovre di palazzo per cui senza interpellarli nemmeno, senza neanche passare per il consiglio comunale, nei palazzi del Nazareno qualcuno ha deciso che, ops, no, vi leviamo il sindaco di Roma e adesso mettiamo il commissario. Vabbè. No, non funziona non così. Funziona così, non funziona, no, così. Non funziona ma insieme, così. Insieme a Veronica Gentili voglio salutare il grande, grande Fedez, Federico Novella. Buongiorno a tutti. Anche tu cantavi? Cantavo anch'io, confesso, cantavo anch'io. Ma dovevamo alzare tutti i cursori, facevamo un trio veramente, che Venditti si capottava nel letto, Venditti, no? lo sbrandavamo. Esatto, ci chiamava per protestare. Esatto. No, non vale la replica, non vale il bis. Vuoi cantare, Veronica? Ti senti cantarina? Facciamo cominciare Federico. Eccola là. Non sento però. Sì, vabbè, ma siete una manica di svitati. Allora, no, niente. Non si può fare la replica. Ci prevediamo, buona la prima. Per la prossima volta dateci un attimo, capito? Allora, io voglio vedere i carri armati al Campidoglio. Sì, sì, voglio sì. Voglio vedere sì. I partigiani di Marino che si rifugiano sui castelli la romani, ridotta mariniana. Voglio vedere la ridotta mariniana. Federico, girano voci che tu sia tornato apposta dal nord per venire a manifestare sotto il Campidoglio, dicono così, è vero? Sì, no, io devo fare, cioè io non me l'ho aperto questa scena, infatti un weekend sarò a Roma proprio per fare una cronaca che consegnerò ai posteri di quello che torni apposta. Fantastico, esattamente. Allora dobbiamo, prima di parlare di anche qualche notizia, lanciare questa iniziativa, cara Veronica, sei pronta con il tuo selfie mattutino? Forza, anzi, vorremmo che da Veronica Gentili partisse questa grande iniziativa. Un invito a tutti i nostri ascoltatori a mandarci un bel vostro selfie. Non abbiate timore di come siete, tanto natura vi ha fatto così, non è che vi ha fatto tutti come Veronica Gentili. Quindi mandate tutti il vostro selfie al nostro account Twitter 24 mattino, cioè coinvolgeteci così vi vediamo un po' facce da parlamento. Posso dire, truccarsi non vale, vogliamo truccarsi vedere le occhiaie, vale. Le borse mattutine. Ragazzi, no, allora il segreto è svegliarsi 3 ore prima, iniziare a far defluire i liquidi, quindi per mandare il selfie. Cioè Veronica Gentili si è svegliata alle 3 per noi, cioè, per una foto. È evidente, no? Ti alzi alle 3, cominci, chiami trucco parrucco e ti prepari per l'operazione. Allora, cara Veronica, attendiamo il tuo selfie. Caro Federico, attendiamo anche il tuo, se possibile, sì, con sbarra bene, o senza sbarra di media. Tanto Federico si è alzato veramente 3 ore prima per far defluire i liquidi, no? No, ma tutti, cari ascoltatori, vorremmo da oggi che ci mandaste tutti il vostro selfie mattutino. Non so, potremmo chiamarlo facce da Parlamento, oppure Parlamento, facce sognare, non lo so, adesso ci l'hashtag, diamoti tempo, perché altrimenti poi è troppo tardi e ce lo teniamo, esatto, per 2 anni. Esatto, perché... o facce ride, dice anche Federico. Ecco, Romero, comunque, ragazzi, allora apriamo subito il Parlamento, perché di Mar- Marino, non so adesso seriamente, non so che cosa ci sia da dire, solo da attendere, ad aspettare. Sappiate che Repubblica dice Marino avrebbe deciso ritiro le dimissioni, però sì. Federico, tu che dici? No, io non lo so, io sono come te, io proprio per puro divertimento spero di vedere, spero che resista davvero, cioè, spero di vedere il Papa che a piedi sale la scalinata del Campidoglio per chiedere personalmente a Marino un gesto di umanità, insomma. Detto questo, non vorrei che fosse diventata una questione personale quella di Marino. Un pochino, sì. Non puoi tenere ostaggio la capitale d'Italia perché ti sei offeso o per il tuo orgoglio, no? Ma su questo non c'è dubbio punto, che sia una cosa personale. Pare che circoli questa idea, non può andarsene con gli schizzi di fango sulla giacca, cioè vuole l'onore delle armi. Che si sporcassero le mani quelli del PD, e come ha chiuso ieri c'è stata la puntata della Gruber con Stefano Esposito, che ormai sta diventando di un insopportabile, che travalica. Ma è proprio, ha chiuso Padellaro bene, porto acqua al mio mulino, ma ha ragione, dicendogli che è un grande, anzi un ottimo scudo umano. È andato a fare, capito, lo scudo umano del PD e delle ipocrisie del PD, arrivando al punto di semi auspicarsi che la faccenda Scontrini non sia chiusa, dicendo ma poi voi che ne sapete fino in fondo che è chiusa, ai giornalisti, da Milano, Padellaro. Sì. Ormai abbiamo superato il ridicolo. Ha fatto pensare Esposito che ci sia qualcosa di più? Ma non si capisce quanto fosse un sapere qualcosa di più e quindi un'illazione di questo genere, oppure ma sai che circola questa cosa a proposito di Esposito, circola questa malignità, e cioè che sia stato in realtà messo lì da Renzi come assessore in pratica per fare implodere da dentro la giunta, ma lui l'ha detto ieri, ma in realtà Sì, lui ha detto, non questo, ha detto sì, maligna questo, si dice che invece noi ce l'abbiamo messa tutta e dopodiché abbiamo deciso di tirarci indietro perché non c'erano più le condizioni, dicendo anche che Orfini si è sperticato. Si è così sperticato Orfini che lo stesso sindaco che difendeva strenuamente fino a qualche giorno fa, dopodiché è bastato il terrore che la cosa Scontrini non funzioni abbastanza per dire sulle nomine all'auditorium è meno male che il sindaco combatte i poteri forti. Qualcuno dovrebbe fargli presente che se vuole avere un minimo di dignità e di coerenza con se stesso, fino a una settimana fa lui lo difendeva a spada tratta. Comunque sì, questo è vero, c'è da dire che hai ragione Federico, cioè è una vicenda personale ormai, cioè può darsi anche che in realtà quello che ci ha detto ieri Adinolfi, uno che la politica la mastica, la conosce, voglia trattare qualcosa, una buona uscita, ma nel senso di può essere, non sarebbe la prima volta che uno fa una resistenza accanita perché poi sta trattando sotto banco. È anche vero che davanti a quei sostenitori del Campidoglio lui mi sembrava particolarmente deciso, particolarmente convinto, cioè non vi deluderò, l'ha ripetuto 4 volte. Mi sembrava che lottasse soprattutto per mantenere una presentabilità, per mantenere il suo orgoglio, prima ancora che per trattare qualche altra poltrona. Questo non si sa, insomma, diciamo che qualcosa. Io non voglio sembrare naif, però anche voler essere notoriamente. Come sei buono stamattina. Io gli credo. Quindi io non penso che onestamente credo che ormai sia diventato cosa? La sua buona fede. Ma ho capito, ma la buona fede di che cosa? A parte che sugli Scontrini ha cambiato versione 50 volte. Hai appena detto, secondo me sta trattando qualcosa. Ti rispondo nel merito. Nel merito io non credo che sia questa la motivazione. Cosa vorrebbe allora l'onore delle armi, Renzi, che dica pubblicamente che è stato. Cosa vuole? Che lo sfiduciassero, che facessero ma sono questioni di lana caprina, cioè c'è una città paralizzata politicamente da mesi. Allora, però la lana caprina serve soltanto per fare la retorica e i sofismi. La città è paralizzata ed era paralizzata anche precedentemente. È una città in cui ormai c'è un livello di corruzione che passa nelle tubature, cioè tu apri il rubinetto di casa e ti esce la corruzione. A questo punto venire a raccontare che tutte le problematiche che ci sono a Roma partano dalla gestione di Marino della città, ma uno lo sa in tutte le salse, Roma in questo momento è appestata, quindi pensare di ricreare un altro gioco di potere in cui c'è un l'interlocutore. Ma tanto di Roma ci divertiremo da qui al 2 novembre. Ma figurati, l'hanno costretto chi? Tu capisci? Ma figurati, ci divertiremo. Oh, ragazzi, in Piazza del Campidoglio. Io non so voi, ma ieri. Fine settimana, Federico. Mi raccomando, passiamo agli appuntamenti dati in radio. Cioè, siamo a sti livelli. Volete dire anche dove, a che ora vi vedete? Solo chiacchiere di sé. Ci vediamo sotto al Campidoglio. Ci vediamo una punta là, no? Al ristorante toscano, quello di Marino. Sarebbe un po' più divertente che vi vediate alle 10 di sera a bere un aperitivo invece che al Campidoglio. Ma non è che dobbiamo fare la serata a Club Mediterranee. Ci facciamo direttamente una bella punta al Campidoglio a mezzogiorno e poi andiamo a mangiare pranzo, giusto? Vieni pure tu, Alessandro, tutti a Roma. Paga novella. Allora, c'è problema. Allora, a proposito di magna, non avrei mai pensato nella mia vita di difendere un wurstel, ma ieri ho mangiato un wurstel, mi è venuto così. Ma l'avete sentita questa cosa della carne rossa? Adesso tutti che sono esperti o oncologi o esperti gastronomi o cuochi. Ma dai, su. Diciamo che Veronica è vegana, quindi non ha nessun problema. Sei vegana? Notoriamente no, volevo dire, ieri leggevo una bella frase. Ma è vera questa cosa? Cosa è vera? Ma no, non è vera. Dicevo, anzi, ieri ho letto una bella frase che una razza che si sta estinguendo e che va protetta siamo noi fumatori, bevitori che mangiano carne, uova insaccati, eccoci. I dissoluti. Questi edonisti che vanno anche i vizi più grandi, abbiamo evidente, i vizi più grandi. Evidente, anche perché poi uso terminologie che voi non conoscete, quindi evito di mettervi in imbarazzo come ai tempi del trisom, no? Hai una terminologia che noi non conosciamo. Mettici alla prova i nostri ascoltatori. Federico, adesso è espertissimo. Federico, infatti, è maestro della cosa. Adesso mi preparo, la prossima volta facciamo un test su questo. Vabbè, sulla terminologia sessuale. Sono disposto, non c'è problema. Vabbè, che quindi, già ieri che ho mangiato. Stavamo parlando carne, di wurstel, però, è di carne. Vedi, ragazzi, così. Libere associazioni di pensiero. Già ieri mi sentivo più in colpa. Mentre mangiavo la carne, queste cose poi agiscono sulla psicologia. Certo, ma come no? Ma sai quanta gente oggi non comprerà più carne per un po' di tempo? Perché ha letto. Tu vai già in un bar adesso, è diventata. Oh, se mangi una bistecca ti viene un tumore tra 10 secondi. Perché poi diventano così le cose. Un pacchetto di sigarette. Sì. Pensa alle cose che vengono dette in queste ore. Esatto. Dai, intanto noi dobbiamo andare al traffico, però, in questo momento. Ma sono arrivati i selfie? Non ho capito. Mi fanno un cenno di assenso clamoroso da parte della regia. Vado subito a vedere. Stai lì, sarà quello di novella. Aspetta, vai. Traffico. Fibio Milan, manda il traffico in Italia, in Europa e nel mondo. Debusciare. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Milan, i gatto comunisti e la pseudodestra hanno cannibalizzato Roma e anche questo paese. E Marino ormai è l'apice. Se ne tornasse a Genova che puzza di pesce. Roma è stata sempre così, una merda. I trasporti schifosi, io ero studente, adesso ho 76 anni, ero studente, ci viaggiavamo attaccati al tram. Con questi tempi qua che corrono, che non c'è lavoro, questi dipendenti comunali che timbrano il cartellino e vanno a fare i cazzi loro, possibile che non si può fare una legge dalla sera alla mattina, che devono essere licenziati? Omina, è tutto trasmesso, tutti comunisti in trasmissione. Mamma da in onda del debbio, l'Aurora e quel Briaone che non ti visti sempre quando è in Cina, che prima di far andare con te due o tre bottiglie di Lambrusco. Certo, svegliarsi con quella antipatia della Veronica Gentili, io credo che sia al massimo. E poi 7 minuti per bere di questo selfie, ma che sarà mai? È una donna, non è neanche un orso. Non non è male, questa l'hai sentita? Sarà, sì. Che sarà mai una donna, non sarà mica un orso. Effettivamente. Dopo la ceretta però, dopo la ceretta. Sì. È arrivato il selfie di Vedova. Eppure qualcosa dell'orso c'è. È arrivata qualcosa. Che cosa c'è dell'orso? No. C'è l'aggressività. Ah, l'aggressività. Grazie, Federico, grazie. È arrivato il selfie di Veronica Gentili. Nessuno di noi crede che tu dorma così. Stanno arrivando anche dei selfie di persone. Dai, c'è chi ce l'ha mandato dell'autostrada. No, non hai capito, caro ascoltatore. Primo, non si fanno le foto mentre si guida. Questa cosa fondamentale. No, secondo, esatto, il selfie vuol dire farsi una foto della faccia. Non è che ma mi fammi capire come dorme Veronica. Ma no, perché... guarda su 24 mattino. Cioè, voglio ragazzi, dire. Ma una volta che voi avete distrutto la mia giornata facendomi alzare a quest'ora, a quel punto uno si comincia a strutturare una personalità, così si va in bagno, si lava, si mette, cioè cerca di ridarsi un senso, capito? Piano. Effettivamente, anche questo è vero. Vi voglio far sentire questa della Littizzetta, ma l'avete vista? C'è una grande polemica perché la Littizzetta ha fatto una battuta ed è stata subissata di codesti epiteti da alcuni del Movimento 5 Stelle. Maledetta, cessa, vergognati. La battuta della Littizzetta sul Movimento 5 Stelle è stata questa. Ho letto che la maggior parte delle stelle cadenti, pare, l'ho letto su Libero, che sia in verità cacca. Nello specifico degli astronauti. Ma piantala! Che sono secoli che chiediamo alle stelle di esaudire i nostri desideri. Ecco perché non si avverano mai! Perché chiediamo a delle cagate! Quindi, da ultimo, quando c'è un movimento di pancia, come vogliamo chiamarlo? Come vogliamo chiamarlo? Movimento 5 Stelle. Non hanno un grande senso dell'umorismo i nostri amici. No. Se la sono presa parecchio. Lei ha fatto un battutone, nel senso che sapendo che già loro si infastidiscono molto meno, però non essendo una giornalista, ma essendo una comica, insomma, un po' di vabbè, così. Ma anche se fosse stata una giornalista mi sembrava una battuta innocua. Sul giornalismo, insomma, sono stati messi al bando giornalisti per cose, insomma, Grillo mi sembra faccia delle battute anche un ma po' infatti lo stesso Grillo pare che abbia detto smettetela di insultare sulla piattaforma, insomma ha fatto una battuta, mentre questa chiusura la voglio dedicare al Papa e a Federico Novella, lui che fa tante puntate a Mattino 5. C'è un'associazione tra le due cose, Ma soprattutto perché io per secondo, scusa, sai chi ha incontrato ieri il Papa? Ha incontrato le comunità Rom e attenzione, sentite qui Francesco. È arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti reciproche diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia. Capito? Federico? Sei scomparso. Capisci? Eccomi, ci sei? Sì, ci sei. No, dicevo, infatti i Rom in Vaticano non li fanno entrare, gli sparano prima. No. Gli sparano. Comunque, alle 9, Mattino 5, c'è Federico Novella e Veronica Gentili è sempre qui. Mandate i vostri selfie. Federico, aspettiamo anche il tuo, A 24 mattino mandate il vostro selfie, vuol dire la vostra facciona. Dai. Il segnale orario vi è offerto da Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Alle 7:19 minuti, quanti selfie che stanno arrivando. Vi ho chiesto sull'onda di Veronica Gentili e anche del nostro Federico Novella di mandarci il vostro selfie appena svegli, dai, fatelo, poi mettetelo su Twitter, su coinvolgendo 24 mattino, se volete anche il mio profilo Alino Milan.

Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro qua. Oscar Giannino, come va? Questo martedì 27 ottobre, Sant'Evaristo contro Beccalossi, Evaristo, il grande. Subito la mette sul calcio. L'unico Evaristo, tu conosci un Evaristo. Ma guarda che gli italiani in queste ore sono tutti divisi sulla motocicletta. È vero, altro che calcio. Se noi qua ci interroghiamo sui temi, esatto. Temoni, ma l'Italia vuol sapere due cose, Oscar. Se mangiare la carne fa male, esatto, oppure no, e se Valentino Rossi ha sbagliato oppure no. Mi pare che gli italiani a maggioranza sono per Valentino Rossi comunque. Io non entro nella disfida. Ho qualche dubbio che il CONI debba prendere ufficialmente la posizione che ha preso. Ma vabbè. Ma lo sai che anche Renzi pare abbia chiamato Renzi ha chiamato. Sono con te. Non lo so, apriremo una guerra con la Spagna, credo, una cosa di questo genere. Non lo so. Io sarei perché lo sport venga giudicato dai giudici sportivi. Sì, io non ne so nulla e quindi non mi azzardo, perché tutti gli italiani sono esperti di motociclismo. Esatto, o esperti in due minuti, esatto, oggi tutti quanti, insomma, io dico solo che anche su questa cosa della carne invito, non so, c'è un pezzo che mi è piaciuto molto perché è un pezzo più scientifico che spiega sulla stampa perché e in che cosa consiste la categoria del rischio per la scienza, Eugenio Tognotti, perché su tutto il resto paginata intera, ma allora questo salume qui sì e quello no, essiccata, affumicata, fanno venire il tumore, non fanno venire il tumore, fanno aumentare il rischio, l'organizzazione Mondiale della Sanità ha detto con questo studio che c'è il rischio di un'incidenza maggiore per alcune carni per alcune carni, quelle lavorate, poi per le altre tumore, comunque c'è un rischio, comunque sia inferiore naturalmente, però è l'occasione perché tutti i vegani, come il grandissimo intoccabile, chi lo dice, per carità, professor Veronese, dicono bisogna essere vegani, c'è chi dice, insomma, un po' di misura. Io non credo fosse vegetariano, non vegano, però sai, dice che i bambini vegani camperanno 120 anni. Sentiamo questa, ecco, il professor Veronesi. Quindi secondo lei un bambino vegano cresce bene? Benone. Ma i bambini di oggi secondo lei arriveranno fino a 100 anni? Sì, il bambino che nasce adesso vivrà 98,5 anni. Ma è fantastico, intervistata la mia amica Nadia Toffa per Open Space. Vivono fino a 100 anni, non lo so. Però attenzione, perché è stato lanciato in un modo, però in realtà lui lo dice di tutti i bambini, sta parlando solo dell'allungamento dell'attesa di vita per tutte le corti che nascono oggi. È ovvio, però voglio dire, speriamo di non aver bisogno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per non sapere che chi si abbuffa di salame dalla mattina alla sera sta peggio. Tutto qua. No, è che oggi, però, lo vedrai, Oscar, sui giornali, per 3 giorni. Ci saranno nutrizionisti, scienziati. E questi sono da ascoltare, ma poi ci sono gli storici, Franco Cardini, che dice la vera condanna a morte è la vita, di tutto e di più, no? Polemisti, la fiera del salume. La fiera del salume. Invece forse qualche altra notizietta in prima pagina andava messo, tipo le tangenti alla Rai. In che senso? Scusami, apprendiamo grazie a qualche giornale, per esempio Il Fatto Quotidiano e pochi altri, a dire la verità, Il Corriere con Fiorenza Sarzanini, che la Rai, il sistema di rilevazione interno che vigila sui conti della Rai, è stata zitta per lungo tempo su evidenti tracce di tangenti a funzione dirigenti Rai per l'allestimento, quindi erano imprenditori privati che infatti oggi collaborano con la procura, che pagavano fior di soldi per fare gli allestimenti di Una Mattina, Ballarò, questa Virus, è l'accusa, 36 milioni viaggi all'estero e mettono anche il canone in bolletta, ecco, perché lì doveva andare, ma cosa c'entra il canone della Rai? Il canone della Rai va pagato, lo dico con la giungla di ai fuori tangentisti anch'io, che stanno muti sulle prove delle tangenti a casa loro. Vabbè, allora no, scusate, ma non ho capito. No, ma c'ha il canino a forma di Dracula. Adesso, al di là del, Oscar Giannino, no, al di là del colore. No, dico che davvero, ma insomma, se ne sono anche accorti, perché bisogna aspettare le procure? Ho capito, però io dico, Oscar, perché tu fai il passaggio poi da dire se ci sono delle truffe, bustarelle, mazzette per trasmissioni Rai, si vedrà. Perché da qui non bisogna pagare il canone della Rai? Io dico semplicemente che in bolletta, lo sai, è un'obiezione tecnica. Questo non ho detto che non bisogna pagare. prevedo che ci saranno un mucchio di pasticci, ma insomma ha detto questo. Però mi scappa da ridere che la RAI, il grande presidio del servizio pubblico, alla fine è, come vedi, anche là, eh? Comunque, è come la Crogliano. Noi allo stato dico no. No, è quella dell'ANAS, la allo Tama stato nera. Dico no, a Crogliano. A Crogliano, se allo quello stato è lo stato, dico. mamma mia. Allora 800 24 00 24 è il numero per le vostre chiamate. Parliamo di tutte. Avremo Michele Emiliano oggi per parlare anche un po' di regioni, anche perché bisogna capire se le regioni falliranno o non falliranno. Già, e poi soprattutto ho visto che il vice segretario del PD, la Serracchiani, dice che l'ordine del giorno, quello per la riforma, che doveva passare le riforme, le regioni da 20 a 12, che sembrava la direttrice della riforma, ha detto no, non vale. Non vale. E ha parlato restano... come presidente della regione più che come vice segretario del PD. Però, credo, sai com'è, se dice che non vale... Non vale. Non è all'ordine del giorno. Oscar, se vorrai parleremo anche di Agenzia delle Entrate. C'è tutto, chiunque prenda oggi un giornale vedrà che c'è una grande diatriba, diciamola così, anche politica, dopo istituzionale, che il sottosegretario Zanetti ha detto di fatto alla Rossella Orlandi, direttrice Agenzia delle Entrate, se ne vada. Lo ha detto chiaramente. Perché non ieri può contestare la politica, spetta alla politica, cioè al governo fissare gli indirizzi di politica tributaria e lei deve seguirli. Solo che Padoan... Renzi lo chiama dal Sud America, esatto, e dice: guarda, io... l'interpretazione di Repubblica stamattina che dice Renzi comunque ha deciso di sostituire i vertici, non lo farà con lo scontro, ma ha deciso di... quindi Renzi gli dice: guarda, io ridò la fiducia pubblicamente Padoan alla Orlandi, però vedrai che mandiamo una nota molto dura in cui ricordiamo all'agenzia tutto quello che abbiamo fatto noi diversamente dai governi e lei si deve attenere. Ho sintesi, capito, ma sintesi. Ma che cosa, cioè, voglio dire, per la che gente, cosa, per i contribuenti, cui prodest, verrebbe anche a dire avere un contrasto forte, così netto, tra la politica e quindi il Ministero dell'Economia e Finanze e l'Agenzia delle Entrate, cioè uno strumento operativo tecnico fondamentale per portare avanti le politiche fiscali. È un brutto segno, perché ovviamente le pratiche, quelle che riguardano i contribuenti, vanno meno avanti perché i dirigenti illegittimi, tutto nasce da quello e dal fatto che loro, malgrado la sentenza della Corte, vogliono la sanatoria e vogliono essere dirigenti senza fare concorso, ed è sbagliatissimo. Però detto questo, al contribuente arriva meno velocità nelle pratiche, più incertezza per tutti, proprio adesso che ci sono grandi accordi internazionali da implementare, la voluntary disclosure eccetera eccetera, e quindi questo è un rischio, quindi è una pessima polemica istituzionale. Sottolineo che è molto singolare, avvengono delle scelte da parte dei giornali diverse dal solito. Il Corriere è schierato nettamente con l'Agenzia delle Entrate, Repubblica no, tanto è vero che fa un commento Stefano Folli che dice: no, ma insomma, qui l'Agenzia delle Entrate non può credere di essere una Repubblica separata. Anche perché Repubblica dal ieri ha lanciato l'intervista di Zanetti, che diceva, quindi, chiaramente si dimette. Sole, no? È ovviamente equilibrato, perché il pezzo di Padula oggi sul Sole è attento proprio a questi aspetti qua che dici tu, che cosa succede adesso ai contribuenti e alle imprese. Però certo è una brutta partita, oltretutto per Renzi ovviamente si aggiunge come sale sulle ferite sul dibattito che spacca il suo partito su il tetto al contante. Tu stai cambiando la politica fiscale, è chiaro. Tetto al contante che Rossella Orlandi non voleva, questa è abbastanza pubblica la ed posizione, ed è questa l'obiezione che dice: ma tu sei un pezzo del funzionario dello Stato, non puoi metterti a far politica al posto nostro. Però, suggerisce Verdini al posto di Orlandi, vabbè, in maniera simpatica. Possiamo ricordare un pezzo oggi che è uscito, certo, esattamente su questo, però che... mi dicono anche Oscar Canino, non è male. Oscar Canino questo. Il pezzo su Italia Oggi è vero, sì, di un, che ci è piaciuto mito, a tutti e due mito, Perché Riccardo Ruggeri, ricordiamolo tutti, l'unico operaio figlio di portiere di uno stabile, è diventato amministratore delegato e capo di una grande azienda del perimetro Fiat, la New Holland, macchine commerciali, è entrato nel comitato strategico della Fiat ai tempi di Romiti, e che proprio per questo, secondo me, quando critica durissimamente il capitalismo dei grandi amministratori delegati finanziari del mondo, va ascoltato con due orecchie attente. L'ha visto con i Cioè, occhi, c'ha no? Tutti i titoli per poterne parlare oggi. Scrive un articolo su Italia Oggi su questa cosa del nero. E a te che è sembrato questo articolo? Ma no, è molto interessante, no? E sul nero racconta delle cose molto, molto, molto, molto dure, no? Quando, per esempio, si racconta di tutte le elite mondiali che sono i più grandi consumatori di che cosa? cocaina e prostitute. Questo almeno, almeno racconta Ruggeri. Beh, anche le cronache pare che le esatto. Pagano in nero, no? Eh già. Oppure pagano ma poi soprattutto Riccardo Ruggeri dice: guardate che qui abbiamo il mito che all'estero, nei grandi paesi, la Germania, di qua di là è tutto, cioè adempiono tutti al fisco, il nero è solo nostro, perché... E dice: guardate che se poi fate, prendete un artigiano a Berlino, una Golf, eccetera, eccetera, pagate in nero. In nero pagate. Ma come? Anche la Merkel, già, anche tu. Già. E ricorda questo grande studio internazionale che fa un peso comparato del nero nei grandi nei paesi europei. Si scopre che rispetto alla media europea del 12%, anzi la media europea è del 15%, la Germania sta al 12% del nero, l'Inghilterra al 9%, l'Italia al 17%, però anche la Svizzera c'è al 7%, e quindi dice Riccardo Ruggeri: guardatevi da tutti quelli che fanno un po' di ideologia su questo. Oh, intanto noi, vabbè, dopo la pubblicità avremo Michele Emiliano, ma io ce l'abbiamo la canzone di ieri dei Buena Vista Social, perché dai, guarda che resiste Marino c'è Guevara, resiste. Anzi, anche qui oggi sulla stampa ci sono due versioni, diciamo, contrapposte, perché c'è chi dice, oramai Sebastiano Messina su Repubblica scrive: Marino ha deciso. Ha deciso, e quindi cosa fa con le dimissioni? Ritira le dimissioni. Questo almeno Repubblica giura, ha deciso. Gira che sarà così. Quindi a questo punto vedremo arrivare, come nella giungla boliviana, la resa dei conti per Che Guevara. Ne vedremo delle belle. Giorno 6. Belle non lo so, però. No, è chiaro, dai, ne vedremo delle belle. Giorno 6 della resistenza mariniana. Io l'ho soprannominata sì, così. No, la ridotta mariniana. È giusto. È un po' come la settimana dell'abolizione delle province. Sì, sempre verdi della politica italiana. Che Guevara, Marino, pare voglia resistere. Chi lo sa? Ma chi lo sa? Forse invece si dimette perché il Consiglio di Stato ha ricordato a tutti i sindaci che, come lui, trascrivevano i matrimoni gay all'estero, che non possono. E vabbè, altra notizia. Confessato politicamente su no questo. Ma siccome molti sindaci avevano fatto di questa cosa un atto di grande novità politica, visto che non abbiamo l'unione civile anche per premere perché il Parlamento l'approvasse, però il Consiglio di Stato ieri ha dato ragione ai prefetti: zitti, muti, piantate la lì di fare sta commedia. Guarda, brutalmente ho lanciato un mostro. Adesso Ruggero da Padova ci scrive che ad Halloween ci saranno i bambini vestiti da Oscar Canino. Mamma mia. Ho lanciato un mostro, questa cosa non pensavo di avere. State attenti perché vengono a chiedere la fattura se c'è il costume, dai, è il momento dei nostri Oscar, ridiamo gli Oscar. Io oggi sarò provocatorio e voglio farvi sorridere, ma vorrei dare il mio Oscar a un Würstel che ieri ho visto un po' depresso. No, ho visto nel frigorifero e dopo aver letto tutte queste notizie ho detto: vabbè, sapete, nel dubbio che c'è, io mi mangio questo bel Würstel che... e quindi do il mio Oscar così, in maniera un po' polemica al Würstel. Ma un po' polemica poi il povero Würstel. Ma che male ti ha fatto questo povero Würstel? No, ma hai ragione. Io sono un po' incerto. Mi ha molto fatto sorridere il pezzo che scrive sul Corriere Danilo Taino su questa riunione del partito, la ZDU in Germania, in cui Schäuble interviene e fa notare alla Merkel: guarda che l'umore del partito nei tuoi confronti è drammatico. Ah, oramai sì. Cioè, anche la Merkel in crisi, un calo verticale oramai della Merkel nel suo paese. Ma il fatto che Schäuble, che voglio dire, ha riservato i suoi canini, quelli davvero, a tutti i paesi europei, adesso si rivolga, cioè, dopo aver preso alla con Merkel, la Grecia, adesso dicendo, ce l'ha con la Merkel. Ecco, vorrei essere stato lì e vederlo questo spettacolo. Schäuble che attacca la Merkel, vabbè. Allora, dopo la pubblicità avremo con noi Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. State con noi, 800 24 0024 per le vostre telefonate. Giustamente, caro Oscar, un ascoltatore dice: non ditelo, abbiamo sentito Veronesi, che i bambini vivranno fino a 100 anni, se no li sentono quelli là e ci alzano l'età pensionabile. Beh, credo che sia un legittimo dubbio del nostro ascoltatore. Se uno vive di più. Avete visto che nella legge di stabilità c'è questa sorpresina che aumenta il blocco dello stop, cioè in altre parole la rivalutazione delle pensioni oltre 2.000 euro per prendere da qui le risorse per pagare altre cose. Non so. Si credeva che invece la rivalutazione fosse sostenibile. spesa per quelle spese. Infatti ci sono giornali che titolano, credo il giornale Libero, se i giornali più orientati centrodestra, a dire è una ennesima stangata sulle pensioni. Usano parole più dure. Però il fatto è che la sorpresa, continueremo nella legge di stabilità ad apprendere sorprese di qua fino alla mezzanotte del 30 dicembre, poi inizieremo a pagarle dall'indomani. Allora, noi abbiamo un ospite, perché anche le regioni sono, non so se sul piede di guerra o sono preoccupate. Lo chiediamo al presidente di una regione, Michele Emiliano, presidente della regione Puglia del Partito Democratico. Buongiorno Emiliano e benvenuto. Buongiorno. Siete più preoccupati, allarmati, sul piede di guerra? In realtà la legge di stabilità è una legge abbastanza light, nel senso che ha un impatto per quello che possiamo avere calcolato fino ad oggi, perché le sorprese poi arriveranno man mano, di circa una decina di miliardi. I 5 dovrebbero essere il taglio per le tasse sulla prima casa, e le altre vanno, credo, in deficit o con altri recuperi. Un paio di miliardi vengono recuperati omettendo di rispettare il patto per la salute che il governo, non questo ma il precedente, aveva stipulato con le regioni, che prevedeva un minimo aumento del budget sanitario. Voglio precisare che il budget sanitario, per inevitabile dinamica dei prezzi, aumenta ogni anno almeno di un punto e mezzo, certo. Quindi per avere un reale aumento bisogna andare oltre questo punto e mezzo. Però noi abbiamo visto che le dimissioni di Chiamparino, no, il presidente del coordinamento delle regioni, e abbiamo capito che non solo per l'aumento di un solo miliardo sui tre previsti del Fondo Sanitario Nazionale, quello che lei ha appena ricordato, peraltro un miliardo che non sarà discrezionale come spesa per le regioni perché è bloccato dai LEA, ma abbiamo capito anche che il governo aveva riservato un altro aggravio alle regioni, cioè dei tagli di spesa aggiuntivi, per così dei contenimenti della spesa nel 2016, 1,8 miliardi, che deriva dal fatto che, contrariamente agli annunci o forse anche alle intese con voi, ci dica lei presidente, entra in vigore la nuova norma sull'azzeramento del deficit l'anno prossimo, non siete sospesi da questo, e quindi questo significa un taglio di spesa. E quindi Chiamparino ha detto: in queste condizioni, caro governo, riprenditi la sanità, fai quello che vuoi. Ha un po' esagerato perché il Piemonte ha molto debito sanitario, o lei condivide? Praticamente le regioni vanno in pareggio di bilancio un paio d'anni prima del governo centrale, sì, e un anno prima dei comuni, e quindi ovviamente questo crea qualche problema. Ma no, credo che le dimissioni di Chiamparino derivino da un'altra storia che non c'entra niente con la legge di stabilità, che è una storia stranissima. Il governo tre anni fa propone alle regioni di pagare immediatamente i fornitori, perché, sì, come voi il debito alle imprese, stato, certo, è il peggiore pagatore d'Italia, e dà 20 miliardi alle regioni e dà dei soldi alle regioni, e gli dice: spalmateli su 30 bilanci, quindi in questo modo noi non avevamo problemi di pareggio. Poi c'è una controversia tra la Corte dei Conti, che non dà la parifica al Piemonte, e la regione, la Corte Costituzionale dice: no, questo sistema non va bene, questo che va proposto il governo, perché così aggirate le norme sul patto di stabilità europeo. E nella sostanza noi dobbiamo scaricare su un unico anno tutto quell'anticipazione, quel mutuo, chiamiamolo così. Per la Puglia è un dramma, 650 milioni, quindi noi andiamo in una situazione di gravissima difficoltà. Ma per Piemonte è una tragedia, altro che dramma per Piemonte. È una catastrofe, perché praticamente il buco è da 5 miliardi, è 8 se non mi ricordo per il Piemonte. Male. Voi 650 milioni? Le regioni, dice: come faccio a guidare le regioni se ho la regione mia fallita? Mentre voi Emiliano 650 milioni, questo è il buco. Noi diciamo che noi reggiamo, sia pure con una difficoltà estrema. Allora il punto qual è però? Che questo decreto salva regioni, che è un decreto salva regioni dal governo, perché in realtà, ripeto, non quello in carica, il precedente, aveva commesso questo errore, e quindi a tutti ci aspettavamo che ci fosse consentito dal punto di vista contabile spalmare nuovamente questi debiti su più anni, su più esercizi. Questo decreto entra ed esce dal Consiglio dei Ministri, e dunque è stato anche bloccato una volta al Quirinale, dal Consiglio. Adesso io non voglio entrare nel Sanctorum, però è evidente che noi stiamo sulle spine, perché praticamente, cioè, lei sta dicendo regioni, però servirebbe questo decreto salva regioni, altrimenti perché tende a evitare che questo sistema collassi immediatamente, e quindi viene il dubbio ad alcuni: non è che per caso anche le regioni hanno stufato A leggere i giornali, presidente, ieri l'Unità diceva ora avanti con l'accorpamento delle regioni. Lei com'è? D'accordo? Perché se la Deborah Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dice questo non è all'ordine del giorno. Lei che dice, Emiliano? Ma guardi, io non sono laico da questo punto di vista. Io personalmente farei tre regioni e basta. Tre. Nord, centro e sud. Addirittura. Tre macro regioni. Tre macro regioni. Bravo Emiliano. Lo sostengo da Bravo Emiliano. Dopodiché però bisogna andare in Parlamento e fare una riforma costituzionale. È ovvio che però un'operazione così è durissima dal punto di vista politico, perché bisogna convincere molti presidenti di regione, molti deputati connessi a quelle regioni, di andare a dire alla propria regione che non esisterà più la campagna. Però Emiliano, non era la riforma del titolo quinto della Costituzione, invece di perdere due mesi sul meccanismo di designazione dei membri del Senato, se diretto o indiretto, con i listini, i listoni, non era il caso di riflettere un po' di più esattamente su questi temi? E aggiungo, sulla ripartizione di competenze a regioni Stato, visto che lei e tutti i presidenti di regione del PD del Sud siete depositari dei quesiti in realtà contro il governo per dire noi vogliamo che non vengano toccata le nostre competenze sull'ambiente, l'energia e così via, non è che si è discusso troppo poco di un dettaglio e quasi per niente della sostanza? Allora, io ovviamente devo fare il mio, mi verrebbe di dire che mi vorrei avvalere la facoltà di non rispondere però... sulla riforma costituzionale, però purtroppo non ho la possibilità di invocare questo beneficio. A me sta riforma sinceramente non l'ho capita bene, non so esattamente a cosa serva, e soprattutto non ha risolto nessuno dei problemi che derivano dalla struttura costituzionale dello Stato. Noi abbiamo una struttura regionalista, significa nella sostanza che Stato e Regioni provano a trovare delle intese. I radioascoltatori avranno sentito la conferenza Stato-Regioni. La conferenza Stato-Regioni è quella conferenza dove lo Stato e le Regioni tentano delle intese per poi andare avanti insieme su alcuni. E devo dire che funziona anche abbastanza bene, è miracolosa per certi versi, perché noi ci autogoverniamo in questo modo. È ovvio che l'ultima parola ce l'ha sempre il governo, però su alcune materie, in tutta sincerità, il governo qualche volta esagera. Per esempio in materia energetica, nella mia regione sono state autorizzate 13 o 14 ricerche, prospezioni per la ricerca di idrocarburi in un momento in cui il petrolio vale poco, sì, e quindi probabilmente il gioco non vale la candela. E con lo sblocca Italia, per esempio, noi non possiamo più discutere col governo cosa fare delle nostre coste, del nostro mare, ma dobbiamo subire e basta. E quindi... Ma soprattutto con la nuova Costituzione, se entra in vigore, quando entrerà in vigore, quella materia diventa una materia ispirata esplicitamente nel testo costituzionale, è una clausola strategica di supremazia nazionale. Esatto, perfetto. E naturalmente questo significa che, per esempio, noi abbiamo investito la Puglia, che viene indicata dal National Geographic come la regione più bella del mondo. Ovviamente io continuo a dirlo, anche se so bene che tante altre sono le terre bellissime, ma la mia è quella della quale parlo più volentieri. È chiaro che se noi investiamo per 10 anni sul turismo, sull'attrazione di investimenti sostenibili, sulla qualità delle acque, e poi improvvisamente mi ritrovo davanti alle coste 13-14 piattaforme petrolifere, peraltro non è l'Oceano Pacifico. Non sono d'accordo. Posso chiedere però com'è che tutti i presidenti di regione del PD del Sud, perché siete tutti voi del PD, sono tutti all'unisono i firmatari di questi quesiti, che sono i quesiti su cui ci saranno i referendum veri, perché la raccolta di firme di Civati non ha funzionato, ma voi in coerenza col testo della Costituzione potevate farlo, consigli regionali è la prima volta nella storia d'Italia che esattamente. Però il punto politico è che siete tutti presidenti del PD, tutti contro la posizione del governo sulla riforma costituzionale. Beh, non sulla riforma costituzionale. Beh, è il nocciolo della competenza regioni-Stato. Sì, io, ho capito. Non ho mai preso posizione contro la riforma costituzionale. Però dice la stessa cosa. Probabilmente perché non l'ho capita, ma l'ho accettata senza fare storie. Devo dire che invece il referendum è su alcune norme dello sblocca Italia, non neanche tutto lo sblocca Italia, che consentono più facilmente le ricerche di idrocarburi. Ecco qui. Senta presidente, lei, ho capito, nella regione Puglia ha in mente di fare il reddito di dignità. Che cosa vorrebbe dire? Praticamente quello che c'è in molti altri paesi d'Europa, un sistema di politiche attive del lavoro che nel caso in cui non si arrivi al minimo reddito sotto la soglia di povertà consenta alle famiglie, che in questo momento sono circa 20.000 le famiglie pugliesi che sono in questa condizione, sostituendo tutti gli altri tipi di ammortizzatori sociali, aiuti dei comuni, perché ovviamente già adesso esiste un sistema confusissimo, devo dire, di sostegno alla povertà. Cioè consente di dargli dei soldi, un minimo. Però in cambio di prestazioni sociali, di formazione professionale e soprattutto se la comunità ha bisogno, per esempio, perché ha un deficit di personale nella gestione di alcuni servizi comunali, di farli lavorare. Bisogna andare a lavorare. Ma è simile al reddito di cittadinanza grillino? Simile, eh? Non è proprio la stessa cosa. Simile, devo dire, al sistema tedesco o inglese. E soprattutto è un sistema che non dura all'infinito, cioè non è che ti campa tutta la vita. Serve a superare i momenti di emergenza. Quindi ci sono dei periodi anche abbastanza lunghi, ma dopo dei quali lo Stato, le regioni e i comuni ti danno delle occasioni per reinserirti nel mondo del lavoro, e se tu queste occasioni le cogli, esci dal sistema e ricominci a vivere normalmente. Io sottolineo che il punto che distingue i redditi di cittadinanza cosiddetti dai redditi minimi sociali di diverse forme è che il reddito di cittadinanza è universale e non sostituisce le altre prestazioni. I redditi invece minimi sociali, come questo illustrato da Emiliano che si propone della Puglia, sono non solo rispetto a un tetto di reddito definito rispetto alla povertà, sostituiscono gli altri servizi sociali, chiedono prestazioni, formazione o lavoro eccetera eccetera, e questi secondi li capisco, i primi meno, perché costano l'ira di Dio. Vorrei chiedere questo a Emiliano: è vero che non c'è niente in legge di stabilità come aiuti all'ILVA e che lei si è arrabbiato e ne vorrebbe e spera magari che la legge di stabilità venga cambiata sotto questo punto di vista alla Camera e al Senato? No, per l'ILVA, se non mi sono distratto, è previsto 1,2 miliardi, ma l'ILVA è una società che ha sede, credo, al nord, insomma è una società del nord che ovviamente per le produzioni inquinanti ha una sede a Taranto, mentre tutto qua, insomma, non è un provvedimento tecnicamente per il sud, anche se devo dire lì lavorano migliaia di persone, quindi è evidente che... Però diciamo che questi commissari pubblici che non producono bilanci, fanno perdere un mucchio di soldi eccetera, mi pare di aver capito che è un po' critico anche lei su questa gestione dei commissari. Insomma, noi abbiamo applicato la legge Marzano ad un'azienda, la legge Marzano è quella per le crisi dei grandi gruppi industriali, per un'azienda che era in bonus, cioè non aveva buchi di bilancio. C'era un problema processuale perché i suoi proprietari erano stati accusati di gravissimi reati di avvelenamento di sostanze alimentari, e quando è stata consegnata ai commissari era in equilibrio finanziario. Adesso c'è un buco che peraltro non riusciamo a leggere. Esatto, perché non producono neanche bilanci i commissari. Perché sono 3 anni che non ci sono bilanci e quindi sono molto preoccupato per tutto l'indotto. Viva Emiliano che dice le cose come stanno. A proposito di Emiliano, però io vorrei capire, visto che lei è stato sindaco, se ci dice che cosa ha in mente Marino in questo momento. Lei sarà entrato nella testa di Marino? No, va bene. Però da sindaco potrà capire. E fa bene a resistere, cioè ci faccia capire, perché ci sarà una partita politica con Renzi, dovrebbe andarsene Marino, dovrebbe rimanere, dovrebbe, fa bene a resistere. Guardi, io non conosco bene, o meglio la conosco solo dall'esterno e le devo essere sincero, quando io sento raccontare i fatti che riguardano la mia amministrazione, anche da giornalisti o osservatori attentissimi, quasi sempre il punto di vista è diverso dal mio, che sono all'interno, quindi penso che Marino abbia un punto di vista molto diverso, diplomatico, nostro, ho capito, ma fa bene alla capitale uno scontro del genere, lui che resiste, il PD che dice ci dimettiamo tutti in blocco, non so. Insomma, è un dramma PD, è un dramma del rapporto col governo, è un dramma ovviamente gravissimo, su questo non c'è dubbio. Ma a proposito di drammi PD, lei sta con l'ANM nei giudizi sulla politica del governo in materia di giustizia o con le risposte che sono venute da Orlando, la Boschi eccetera eccetera? È un magistrato Emiliano, eh? Vabbè, apposta. Io, devo essere sincero, ho partecipato perché ovviamente lei ha portato il certo. E ho detto chiaramente che non è mio compito entrare in una dinamica così delicata, perché faccio solo il presidente della regione, però è impossibile riformare sistemi rilevanti, non so, l'informazione, il lavoro, la sanità, senza il dialogo con i soggetti che lì dentro hanno competenze e ci vivono. Quando un governo pensa di essere... Però lei sa meglio di me che governare è scegliere, altrimenti si diventa captive, prigionieri di ognuno di quelli che dicono non puoi toccare la sanità perché sono un medico, non puoi toccare la giustizia perché sono un magistrato. Appunto, non mi risulta che lei faccia così. Come facevo da magistrato, ascolto moltissimo, sto molto attento. Se se ho commesso degli errori, non ho, anzi mi piace ammetterli, perché quando un uomo ammette durante un'istruttoria che riguarda il suo lavoro di aver commesso un errore, vuol dire che è una persona seria. Invece quando vedo i bracci di ferro senza né capo né coda, si sta discutendo, non so, delle intercettazioni telefoniche, allora è pacifico che secondo me stanno dicendo la stessa cosa, cioè non è che i magistrati si divertono all'idea che intercettata una persona perché è sospettata di rapina, poi non lo so, gli si racconta sul giornale che ha un rapporto con il suo vicino di casa e si distrugge la famiglia dell'uno e la famiglia dell'altro. Sì. È chiaro che questa roba non va per i giornalisti, non va per i magistrati e bisogna correggerla, non c'è dubbio. Però non si può neanche soffocare la possibilità per i giornali di raccontare dei fatti se ritengono che questi fatti sono rilevanti. Certo, essere un personaggio pubblico è durissimo, come io so bene la mia pelle, anche i fatti più banali e normali della vita possono diventare. Sì, però dice, questi bracci di forza non le piace. Devi avere la pazienza e la fiducia nei giornalisti e nel pubblico di rispondere pacatamente, di solito con un po' di pazienza. Sì. Quando diciamo il momento si è un po' raffreddato, normalmente la gente poi alla fine capisce se hai ragione sul serio. Se hai torto ti devi rassegnare. Va bene, intanto noi la ringraziamo Michele Emiliano per essere stato con buon noi. Buon lavoro. Presidente della Regione Puglia, non lo so se c'è Fabrizio da Novara, però in 10 secondi Fabrizio ci deve dire quello che ci vuole dire. Sì. Fabrizio. Buongiorno, grazie. Ma visto che si parlava di regioni, sì, in Piemonte ad esempio, oltre al disavanzo di cui parlavate, sì, molto probabilmente verrà reintrodotto anche il bollo sulle auto ecosostenibili che fino ad oggi era giustamente. Lei ha un'auto interessata? Io sì, ho un'auto GPL, ma riguarderà anche le auto elettriche. Cioè, la domanda era: in un momento come questo, dove ovviamente si promettono tagli di tasse, ovviamente una nuova tassa, però da piemontese a me dispiace ricordare che abbiamo delle responsabilità sulla sanità piemontese, non è colpa degli altri. Ma magari lo affronteremo nei prossimi giorni. Caro Oscar, ci dobbiamo salutare, a domani. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi